Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come ampiamente anticipato, Consiglio dei Ministri oggi, che ha varato numerosi provvedimenti, ripeto, già ieri ne abbiamo parlato a lungo. Anticipo però a tutti che oggi sarà la puntata in cui daremo testimonianza e atto dei problemi tra le piccole imprese e le banche. Le lettere che abbiamo selezionato, garantisco, insomma, a chi lavora in banca, sono anche le più posate. È chiaro che sono lettere amare, amareggiate, anche un po' polemiche. Avremo modo di parlarne anche con chi rappresenta le banche straniere in Italia nella seconda ora del programma. Riascolteremo su vostra richiesta quella testimonianza, non per intero chiaramente, di un imprenditore che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, emblematica, abbiamo detto paradigmatica, usando un linguaggio un po' alto, di quello che sta capitando: cassa integrazione, difficoltà a avere i soldi dovuti dal fisco ma anche dalle banche. E quindi la puntata di questo principalmente si occuperà. Perché? Perché continuiamo a vedere, a leggere dichiarazioni importanti, immaginiamo assolutamente veritiere, dei massimi vertici bancari del paese. Penso a Corrado Passera di Banca Intesa, Alessandro Profumo di Unicredito, poco fa anche Enrico Salza, presidente dei consigli di gestione di Intesa San Paolo, che dicono: attenzione, se le imprese non ricevono soldi è perché non li vogliono, è il cavallo che non beve, ha detto Salza poco fa. Non è vero che le banche non abbiano i fondi, le linee di credito per le imprese. Corrado Passera due giorni fa aveva detto il problema non è la liquidità ma è l'economia, e quindi mancanza di esportazioni, di ordini attivi, per cui sono le imprese che non chiedono anche soldi. Alessandro Profumo ieri ha detto: attenzione, le piccole e medie imprese soffrono, ma non per colpa delle banche, perché hanno ritardi nei pagamenti da parte dei fornitori, dei clienti. Tutto vero, però a nostro avviso è solo una parte del problema. Le banche non si possono chiamare fuori da quella che noi registriamo in continuazione come una difficoltà nel concedere credito, una restrizione di linee di credito già esistenti, senza che sia cambiato il profilo di rischio del cliente. E su questo, mi dispiace, la risposta non può essere semplicemente: noi i soldi li abbiamo, sono le imprese, gli artigiani, i commercianti che non ce li chiedono. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiaramente racconteremo anche la cronaca dei provvedimenti presi oggi dal Consiglio dei Ministri. Sta per iniziare tra circa 5-10 minuti la conferenza stampa congiunta del Ministro dell'Economia Tremonti e del Presidente del Consiglio Berlusconi, proprio su quello che oggi è emerso dal Consiglio dei Ministri. Ne parleremo appena saremo in grado di darvi anche alcuni passaggi della conferenza stampa. Le borse come vanno? Sono leggermente negative, meno 0,7% il FTSE MIB, meno 0,6% il FTSE All, Parigi meno 1,4%, Francoforte meno 0,7%, Londra mezzo punto percentuale di calo, l'America sta perdendo lo 0,70% sul Dow Jones e lo 0,25% sul Nasdaq. Euro su dollaro a quota 1,40, i titoli meno 5% Lottomatica, meno 2,90% Popolare di Milano e anche Luxottica, meno 2,1% Unicredito e Fiat. 1,5% il calo di A2A, di Geox e di Autogrill, ma anche di Fondiaria, Enel ed ST Microelectronics. Chi guadagna invece oggi in borsa sono soprattutto Buzzi Unicem più 2,6, Banco Popolare più 1,90, Ansaldo più 1,5, Atlantia più 1,2, CIR più 1,1, Ubibanca più 0,90, mezzo punto percentuale su Finmeccanica, di rialzo su Finmeccanica, Tenaris e poi Mediolanum più 0,20%. Di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms. E allora raccontiamo come sempre in breve la giornata. Sotto i $70 al barile il petrolio a New York, l'Euribor invece continua a toccare i minimi storici, sembra un po' una beffa. Vabbè, l'Euribor, il tasso a cui le banche si prestano i soldi e su cui si dovrebbe calcolare poi attraverso uno spread, una maggiorazione, il costo del denaro per i clienti continua a scendere ed è all'1,12%. In Germania l'inflazione a giugno va a zero, il livello più basso da 13 anni a questa parte. In Italia l'occupazione delle grandi imprese è scesa del 4,1% al netto, cioè senza considerare la cassa integrazione, è il calo più ampio dal 2001. E poi il Consiglio dei Ministri, ripeto, ne parleremo visto che sta per iniziare la conferenza stampa tra circa mezz'ora. Comunque via libera al decreto legge anticrisi, come ampiamente annunciato, rimborsi anche per gli azionisti di Alitalia e soprattutto per gli obbligazionisti di Alitalia, 70% rimborso per chi aveva obbligazioni Alitalia. Gas meno caro per le imprese e le famiglie. Stiamo parlando degli elementi nella bozza del decreto, per cui poi vedremo tutta la sua applicazione. Arriveranno anche i progetti di formazione per i lavoratori che altrimenti sarebbero costretti a stare in cassa integrazione, e poi un freno agli stipendi e alle consulenze nelle società pubbliche. E poi il Presidente del Consiglio è tornato sul fatto che il fattore psicologico è determinante per l'estensione temporale di questa crisi. La paura, ha detto Berlusconi, è la prima causa della crisi. Dobbiamo lavorare sul fattore psicologico e anche i media sono responsabili. E oggi però ha risposto anche Prodi, l'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, il quale ha detto la crisi attuale è una crisi grande, reale e forte. Quando si dice che il PIL è a un meno 5% vuol dire che è una crisona, ha aggiunto Prodi, è inutile negarla, è ridicolo, il problema è lavorare insieme per uscirne. Chiaro che in queste parole c'era anche lo strascico di quello che avete letto oggi sui giornali, ossia le previsioni ieri della Banca d'Italia da un lato, e oggi invece, e il no comment del ministro Tremonti che ha detto: non facciamo previsioni, non parliamo di previsioni fino a settembre, anche gli economisti, insomma, stiano silenziosi fino a settembre. Oggi ha parlato della situazione economica anche la Presidente di Confindustria Marcegaglia, è intervenuta all'incontro con il governo a Palazzo Chigi, ha detto: attenzione, ci sono piccoli segnali di miglioramento, ma la situazione resta grave. Resta il rischio della perdita di un pezzo del tessuto produttivo e della tenuta della coesione sociale. E poi ancora bene la Tremonti Ter, ossia la parte che riguarda il decreto e crisi che detassa al 50% gli investimenti nelle aziende. Lo dico a chi scrive: non dovrebbe riguardare gli investimenti in immobili e nel parco auto, perché altrimenti insomma sarebbe difficile capire quando è investimento e quando l'auto uno se la compra per sé. E poi via libera anche del CIP alla Brebbe Mi, tratto autostradale Milano-Bergamo-Brescia e altra foro del Frejus. Ancora, tra l'altro, sulla Brebbe Mi c'è un po' di polemica perché il costo per chilometro è di 30 milioni di euro, che è un costo altissimo, insomma, il doppio di quello che costa in media in Europa. Il triplo di quello che costa in media in Europa. Però secondo Giovanni Castellucci, che è il ministro legato di Autostrade per l'Italia, ha detto che si tratta del prezzo del consenso, anche perché metà di questo 1,6 miliardi, tanto costerà fare 62 km di tratta, è destinato alle opere di compensazione, cioè tutte quelle opere viarie che servono, diciamola così, come moneta di scambio con le amministrazioni locali dei 43 comuni toccati dal tracciato. Ultima nota, Fiat Opel, non ci sono novità. Ha detto un poco fa Marchione che non si riaprono le trattative con Opel, ora non c'è nessuna ipotesi di riaprire le trattative con Opel, però come alcuni temevano e come anche noi abbiamo sospettato, non è che l'operazione con Magna convinca tutti. Il ministro dell'economia tedesco Gutenberg, quel ministro insomma che ha parlato molto durante l'operazione, ha detto: veramente General Motors e il gruppo Magna non hanno ancora prodotto una soluzione sostenibile per la vendita di Opel. Non tutto è perduto, però a noi sembrava che, insomma, vista la stampa tedesca, le dichiarazioni dei vari governatori dei Land, insomma, Magna fosse nettamente meglio. Tutto questo così, essere schizzinosi sull'opzione italiana, adesso vedo che, insomma, qualche problemuccio ce l'hanno ancora. Intanto però il presidente di Sberbank, uno dei soggetti della cordata, ha detto: beh, l'accordo per l'acquisto della casa automobilistica Opel potrebbe essere chiuso a settembre nell'ipotesi più ottimistica. E allora, il nostro primo tema, dopo diversi annunci ci siamo, banche e piccole imprese. Ieri avete sentito anche i commercianti con il presidente Sangalli dire: qui ci sono banche che erogano il credito a due velocità, lo fanno in maniera veloce per i grandi gruppi e lo fanno in maniera molto molto più lenta per i piccoli artigiani, piccole imprese, piccoli commercianti. Secondo Confindustria, almeno 2 milioni di imprese denunciano difficoltà nell'accesso del credito. Banca d'Italia ha rilevato come l'8% delle imprese ha avuto un no ad una richiesta di finanziamento, è il valore più alto dagli anni 90. 3 anni fa erano solo il 3%. Inoltre, 10 imprese su 100 dichiarano di aver ricevuto da ottobre in poi richieste di rientri anticipati. Un fenomeno che riguarda tutte, grandi, piccole imprese, più intenso nel mezzogiorno, e appunto Confcommercio rileva come per i fidi fino ai 250.000 euro vengano adesso chieste garanzie pari al 90% dell'importo, sopra i 25 milioni invece le garanzie sono del 20%. Avete capito bene, se uno chiede 250.000 euro gli chiedono praticamente 240.000 euro di garanzie, se io chiedo 25 milioni mi chiedono sostanzialmente 4 milioni di garanzie. Varrebbe la pena andare tutti quanti a chiedere 25 milioni e poi distribuirci tra di noi. Va bene, comunque diremo anche cose positive delle banche oggi, non solo cose negative. Non parleremo del tema molto delicato di come la commissione di massimo scoperto sta rientrando dalla finestra, già su questo vi sono state posizioni anche politiche. Io mi auguro che la vicenda veramente si chiuda e vada sotto la fattispecie di un errore, così, di una svista da parte delle banche. Allora, adesso vi facciamo ascoltare 4 testimonianze, lettere che sono arrivate, sono state le voci sono voci di collaboratori e giornalisti di Radio 24, chiaramente l'anonimato è garantito, c'è solo il nome, sono 4 delle decine di lettere che abbiamo ricevuto in queste 2 settimane da quando abbiamo chiesto agli imprenditori di scriverci, e vi assicuro sono anche lettere tutto sommato posate, anche se polemiche, e sicuramente non prive di amarezza e anche un po' di rancore. Buongiorno, sono un imprenditore di 33 anni della provincia di Vicenza. All'inizio del 2009 ho richiesto un finanziamento per sostenere la mia attività operante nella componentistica dell'automotive, visto che i miei maggiori clienti pagavano con estremo ritardo. Le stesse banche che hanno vissuto per 25 anni sulle spalle dell'azienda della mia famiglia, poiché mio padre non conosceva nulla di aggiornamenti di fidi, spread, tassi di massimo scoperto, e che hanno ricevuto per 25 anni rientri puntuali, in quella occasione mi rifiutano ogni sostegno. Mi dicono: abbiamo bisogno di pari garanzie oppure di un progetto industriale, il tutto per un finanziamento di 200.000 euro o poco più. Dopo alcuni mesi di lavoro costante, 7 giorni su 7, propongo un piano industriale per sviluppare una divisione interna per la produzione di micropale eoliche, per la produzione di energia e offrire una piccola opportunità di conversione alla mia azienda. La risposta è stata: torna a fine 2009, per ora non possiamo seguirti. Ho avuto questa risposta da 2 popolari e una rurale. Mi sta passando la voglia di fare impresa. Purtroppo ho 16 famiglie che dipendono da questa mia voglia e non posso mollare. Alberto. Gentile redazione, qualche giorno fa decido di acquistare un nuovo furgoncino per la mia azienda e mi reco alla banca, della quale sono cliente da quasi 30 anni, per chiedere un prestito di 10.000 euro con rientro in 48 mesi. Mi chiedono i soliti bilanci, la denuncia dei redditi. Poi il funzionario mi chiede possiede ancora il capannone e la casa? Rispondo sì. Speravo fosse sufficiente. E invece mi sento chiedere anche la firma di avallo di mia moglie titolare di una pensione. Vi garantisco che la cosa mi ha fatto, diciamo, alterare. Vi preciso poi che la mia moralità, serietà e solvibilità è ineccepibile. Lorenzo. Sono un'imprenditrice e il sistema bancario mi ha letteralmente messa in ginocchio. L'azienda che rappresento aveva un portafoglio ordini di molti milioni di euro ed eravamo in grado di assicurare lavoro per tutto il 2009 alle aziende collegate. Con la mole di lavoro che avevamo e continui ordini in arrivo, avevamo anche preventivato molte assunzioni. La nostra società aveva presentato alle banche un piano industriale, un piano finanziario, avevamo una fideiussione da parte di una banca di garanzia già deliberata e loro hanno preferito revocarci gli affidamenti. Voglio far presente che la nostra azienda è leader nel mondo per le macchine zootecniche. Quando sento parlare ai bancari e ai banchieri mi vengono i brividi, perché penso al disastro economico che hanno creato. Non sanno cosa vuol dire condurre un'azienda che deve competere con il resto del mondo e non conoscono gli sforzi che si devono fare tutti i giorni. Il ridicolo è che vogliono darti lezioni di come si gestisce un'azienda, quando loro sono abituati a rovinare la gente, imbrogliare, fare bilanci falsi e poi non aggiungiamo altro. Alessandra. Buongiorno, sono un piccolo imprenditore di Alessandria, ho due concessionarie auto con 25 dipendenti. Lavoriamo con tre banche, abbiamo un totale di 400.000 euro di fidi e un ottimo rating, ma nel 2008, a causa della crisi, abbiamo sforato il fido massimo scoperto. Fino all'aprile scorso la banca ci ha fatto pagare interessi del 13%, poi siamo rientrati, ma solo dopo varie lettere di rimostranze siamo riusciti a far diminuire gli interessi, che comunque toccano il 6%. Mi viene da pensare che le banche approfittino della situazione per ricattare l'azienda sana e guadagnare spropositi. Marco. Un po' di amarezza, un po' di polemica, però attenzione, ripeto, chi sta scrivendo al 349-238-6666, state così mettendo le banche sotto accusa, che rispondo che abbiamo scelto anche le più morbide delle lettere che sono arrivate. Se poi uno vuole fare orecchie da mercante, facesse orecchie da mercante. Giuseppe Morandini, presidente della piccola industria di Confindustria, vicepresidente di Confindustria, buonasera. Buonasera a voi. Intanto, visto che lei fa anche l'imprenditore, queste lettere non è che si faccia molta difficoltà a riceverle, a trovarle. No, anzi, sono le cose che ci si sente dire dai nostri colleghi imprenditori. Io frequento molto il territorio, da nord a sud dell'Italia. Purtroppo il problema principale è ancora in questo momento di più il rapporto col mondo del credito. Allora, prego. No, io credo che bisogna anche cercare di superare questa fase, secondo me, troppo conflittuale e dare disponibilità a tutti, imprese, banche e anche misure fiscali del governo per riuscire a venire fuori da questa crisi dalla quale da solo ognuno per la propria strada non può più uscire. Ecco, su questo, per essere anche propositivi, segnalo da un lato che per esempio Unicredit il prossimo 29 giugno a Torino premierà le piccole imprese che hanno, ne premierà più di una decina che hanno accettato la sfida e hanno mostrato una grande capacità di essere competitive, eccellenze e nuove opportunità. Torino appunto il 29 giugno. Segnalo anche che sempre il gruppo Unicredit, visto che ci siamo occupati della vicenda di Schio, nei confronti delle imprese di Schio ci ha fatto notare che non solo nel caso della Smith Textile ha una linea di finanziamenti pari a 2 milioni di euro, ma in generale ha dato a ben 251 imprese clienti dell'area di Schio fondi per 17 milioni di euro, e anche questo lo segnaliamo molto volentieri. Detto ciò, sono d'accordo con lei che non si debba essere conflittuali, ma in questo momento abbiamo il ministro Monti che dice alle banche: attenzione che state tornando a fare gli errori di prima. Le banche che rispondono: il problema non è la liquidità, ma sono le imprese che non ci chiedono i soldi. Se le piccole e medie imprese soffrono, non è colpa delle banche, ma è colpa del fatto che non li pagano i clienti. È il cavallo che non vuole bere. Ho citato nell'ordine le dichiarazioni degli ultimi tre giorni di Corrado Passera, Alessandro Profumo e Enrico Salza. Allora, probabilmente la verità sta anche nel mezzo. C'è una difficoltà, Morandini, delle imprese per cui delle volte i finanziamenti quelli di una volta, i macchinari non vengono chiesti, magari si potrebbe cercare di dare un credito un po' diverso che facesse respirare. No, guarda, io le assicuro che col credito giusto il cavallo beve, perché è evidente che noi dal secondo semestre 2008 ci troviamo a dover gestire dei cali di fatturato dell'ordine del 20, 30 e anche 50%. Queste non sono le condizioni per investire, però c'è la grande necessità di avere la possibilità di accedere al credito per la gestione quotidiana. Ed è quello, la gestione ordinaria, dove noi sentiamo una mancanza di una vicinanza della banca. Qui ci sono tre cose da fare. Io non commento più nemmeno le considerazioni che fanno le banche in questi giorni, proprio perché voglio andare oltre. Se mi fermo sul commento di quelle affermazioni potremmo parlarne per giorni, giorni e giorni senza risolvere il problema. Mi rifaccio invece a quello che è stato il grande richiamo che Draghi ha fatto. Primo, le banche devono tornare a fare il loro mestiere come facevano negli anni 50 e 60. Ci vogliono direttori di filiale che siano un po' meno preparati sulla vendita dei prodotti finanziari e molto più preparati sulla valutazione strategica delle nostre aziende. Ci vogliono direttori di filiale che vengano a conoscere e vedere le nostre fabbriche, come facciamo i nostri prodotti, a conoscere i nostri dipendenti, le nostre organizzazioni. Poi servono due cose al di sopra di tutto. Io sento parlare spesso di moratoria in qualsiasi campo, in qualsiasi occasione, ma la vera moratoria che serve in questo momento è una moratoria di almeno 2 anni sui parametri di Basilea 2. È una moratoria che sarebbe utile alle imprese, soprattutto se penso ai bilanci 2009 e all'impatto che i parametri di Basilea 2 avranno su quei bilanci, ma sarebbe utile anche alle banche, perché potrebbe consentire loro di ridurre i costi e poter mettere maggior liquidità all'interno del sistema. La seconda cosa che serve, o terza, è un grande patto per la capitalizzazione e per le aggregazioni. È un patto che va fatto a tre. Va fatto con l'impresa per prima, ma comunque abbiamo sempre fatto il nostro dovere, abbiamo sempre finanziato le nostre imprese. Il mondo bancario, che deve dare una mano, una leva bancaria all'operazione di capitalizzazione dell'imprenditore. Se l'imprenditore mette uno, la banca deve dire quanto mette, 2, 3, 4, 5 volte quello che l'imprenditore mette. E poi la leva fiscale. Purtroppo nel provvedimento che è stato varato oggi non vediamo quelle misure fiscali per la capitalizzazione delle piccole imprese che avevamo chiesto con così tanta forza. Beh, almeno da quello che abbiamo capito ci dovrebbe essere la Tremonti Ter, cioè la defiscalizzazione degli utili reinvestiti in beni e mezzi aziendali a esclusione di immobili e auto e parco auto. Sì, questo va benissimo, è un provvedimento un po' articolato, lo stiamo approfondendo in questi momenti e fa riferimento a delle tabelle relative agli acquisti che possono essere assoggettati alla deducibilità del 50% sull'imponibile IRES. Comunque, torniamo a bomba e a palla sul tema. Molti ascoltatori, devo dire al 349-238-6666, dicono vabbè, preso atto del fatto che le banche stanno facendo questa politica, chi più chi meno, non vogliamo fare tutto una bonfascia, non possiamo fare i distinguo per ogni singolo gruppo bancario. Perché Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, cioè le associazioni di categoria non si organizzano e iniziano a creare loro un meccanismo per il credito? Perché non cercano loro di, attraverso, chiedendo anche al governo, delle garanzie, penso a miliardo e mezzo sui Confidi, perché non cercano di organizzarsi in altro modo se il canale bancario è ostruito o parzialmente ostruito? Guardi, il governo ha fatto degli interventi eccellenti per la capitalizzazione delle banche, ha fatto l'intervento eccellente sul fondo di garanzia. Abbiamo delle strutture Confidi che sono funzionanti, anche se possono e devono migliorare ancora, che sono operazioni, che sono organizzazioni sul territorio vicine alle nostre imprese. Io credo che sia inutile creare dei canali che vanno a sovrapporsi su quello che è il canale storico. La grande pressione che dobbiamo fare è che questi riprendano a fare il vero mestiere di banchieri, che si dimentichino una volta per tutti delle sirene della finanza facile e che riescano a capire che solo finanziando la produzione si mantengono i posti di lavoro e possono svolgere il loro ruolo sociale che come noi imprenditori con le nostre imprese da sempre svolgiamo, anche la banca in un momento di difficoltà e di crisi come questo deve sentire la responsabilità di dover svolgere. Allora, adesso c'è qualche minuto di pausa pubblicitaria e poi le ultime domande per Giuseppe Morandini, presidente della piccola industria di Confindustria. Due sms cito dei molti. Il primo dice: vergognatevi, non diciamo mai, rivolto immagino a me, lei Morandini, comunque non diciamo mai di no a imprese sane anche per consolidare i debiti a breve. Qui, quando diciamo di no è solo di per aziende che praticamente sono in pre-stato fallimentare, cioè sono in uno stato di pre-fallimento. Allora, vergognarsi, magari uno lo fa per altre cose nella vita, il tema c'è tutto, poi giustamente uno dice, ci dica anche il nome della filiale della banca in cui lavora, così la indirizziamo gli imprenditori. Però non neghiamo il tema, per favore. Seconda sms che vi leggo, fare saltare le banche è semplice, ci si mette d'accordo, si chiudono i conti, si va da una banca sola, come faremo noi piccoli imprenditori di Udine in settembre. Andrea, questo è il modello Schio. Io so che poi Unicredito ha contestato i dati, li abbiamo letti. A Schio, sindaco, sindacalista di un'impresa, hanno minacciato di ritirare tutti i conti correnti dei dipendenti se non venivano aperte le linee di credito, e qualcosa hanno ottenuto. Attenzione, perché a settembre sarà un settembre pesante sul fronte dell'occupazione. Il passaggio dei prossimi mesi sarà decisivo. Una mortalità eccessiva che colpisca per asfissia finanziaria anche aziende che avrebbero il potenziale per tornare a prosperare dopo la crisi è un secondo grave rischio per la nostra economia. Il deterioramento dell'economia tende a frenare i prestiti bancari. Ad aprile il tasso di crescita trimestrale del credito alle imprese non finanziarie si è annullato. Era del 12% un anno prima. Continuano a rallentare anche i prestiti alle famiglie. Minori investimenti industriali e immobiliari, minori consumi di beni durevoli spiegano parte del rallentamento. Ma è anche l'offerta di finanziamenti delle banche ad aver decelerato, innanzitutto per le difficoltà di provvista a medio e lungo termine, ma anche per l'aumento del rischio di credito. Secondo la nostra indagine, l'8% delle imprese ha ricevuto un diniego a una richiesta di finanziamento. È il valore più elevato dalla metà degli anni 90. Era meno del 3 un anno fa. Oltre il 10% delle imprese dichiara di aver ricevuto da ottobre richieste di rimborsi anticipati. Il fenomeno, più intenso nel mezzogiorno, investe l'intero paese e riguarda anche aziende di dimensione non piccola. Non si può chiedere alle banche di allentare la prudenza nell'erogare il credito. Non è nell'interesse della nostra economia un sistema bancario che metta a rischio l'integrità dei bilanci e la fiducia di coloro che gli affidano i propri risparmi. Quel che si può e si deve chiedere alle nostre banche è di affinare la capacità di riconoscere il merito di credito nelle presenti eccezionali circostanze. Come ho detto in altre occasioni, occorre saper fare il banchiere anche quando le cose vanno male. Secondo me questo passaggio della relazione del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nelle considerazioni finali del 30 maggio dice tutto e tiene dentro tutto, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, siamo di nuovo in diretta con Focus Economia, io sono Sebastiano Berisoni e stiamo facendo una puntata dedicata in buona parte al rapporto banche-imprese. C'è dentro tutto, lo dico a chi ha scritto, c'è dentro il fatto che nessuno chieda alle banche di assumersi rischi impropri, sarebbe una follia mettere a repentaglio il sistema bancario. C'è anche la considerazione che parte dei minori impieghi è dovuta a una difficoltà economica per cui uno magari sta lavorando di meno, ma c'è dentro anche il monito al mondo bancario, bisogna fare i banchieri e saper riconoscere il credito e la qualità di chi te lo chiede anche nei periodi difficili. Troppo comodo chiudere i rubinetti perché non si è capace di valutare la bontà della persona che è di fronte. E allora vi leggo un sms e poi ridò la parola al presidente della piccola industria di Confindustria. Buongiorno, è arrivato qualche minuto fa. Mia moglie lavora in banca e le garantisco che praticamente ogni giorno quando viene a casa mi racconta delle circolari che arrivano in filiale e che riguardano il recupero di crediti erogati e direttive su come devono essere molto più fiscali e restrittivi nel concedere nuovo credito a privati e aziende, e sia lei che i suoi colleghi si chiedono come sia possibile in un momento come l'attuale, come si possa fare una così consistente stretta al credito. Allora, qui o la moglie racconta balle al marito, ma spero di no, oppure qua non ci siamo. Morandini, nel passaggio di Draghi, a mio avviso c'era tutto, non si chieda al mondo bancario un ruolo improprio, ma la si smetta di dire che la situazione è difficile e non si sa come erogare il credito. Forse Basilea 2, cioè quel meccanismo che prevedeva dei rating europei per giudicare la qualità del cliente, sarà anche utile a livello europeo, ma ha disinsegnato alcuni direttori di aree di banca come si fa a giudicare un cliente? Ma vede, per quello io non a caso ho chiesto prima la moratoria di Basilea 2. Qui bisogna sospendere questi criteri per un paio d'anni e recuperare a fare il mestiere di banca anni 50-60. Ricordiamoci sempre che l'Italia è diventata sesta o settima potenza economica mondiale grazie al rapporto banca-piccola impresa, grazie al valore che si è generato per il paese con la capacità del piccolo imprenditore di andare sui mercati internazionali, di produrre a bassi costi e altissime qualità, ma con la banca che sapeva scommettere in quei progetti. O ritorniamo a quei livelli di collaborazione, oppure potremo continuare a fare questi confronti dialettici che però portano il paese a sbattere. Una critica però la voglio fare anche ai piccoli imprenditori, in questo caso Morandini, visto che lei ne è il presidente in Confindustria. Molti bancari scrivono: vabbè, avete ragione, purtroppo le direttive che abbiamo avuto sono di chiudere giro di vite su tutti, anche se sei bravo, anche se sei affidabile, anche se non hai problemi. Questo è il segreto di Pulcinella. Però attenzione, molti piccoli imprenditori hanno parte del fatturato in nero, non sono chiari quando presentano i conti, c'è una contabilità, è quella che si chiamerebbe con un linguaggio da chi ha studiato governance, non trasparente, non chiara. Allora facessero uno sforzo anche i piccoli imprenditori per diventare un po' meno così artigianali e un po' più anche professionali nel rapporto con la banca. Io questo condivido perché sono messaggi dei quali noi piccoli imprenditori ormai parliamo sempre. C'è un parametro dal quale non potremo prescindere nel modello economico futuro che uscirà da questa crisi, e io sono sempre convinto che la scala che rappresenterà quel modello lì è la scala patrimoniale. Non si può più litigare con i patrimoniali delle nostre aziende, dobbiamo avere dei patrimoniali chiari, dobbiamo avere una nuova capacità di comunicazione con le banche. Sono i due riferimenti che noi piccoli imprenditori dobbiamo avere, sui quali stiamo lavorando da tempo. La terza cosa, le banche, sarebbe bene, ed è una strada che come piccole industrie abbiamo scelto da tempo, di riuscire a definire degli strumenti che siano tagliati sulla nostra dimensione. Abbiamo scelto la strada di firmare delle convenzioni con i singoli istituti bancari, sfidiamo i singoli istituti bancari a farci vedere quali sono gli strumenti con i quali loro vogliono stare vicino alle nostre piccole imprese. Me la dà una notizia di speranza, un accordo con qualche gruppo bancario, non so, Unicredito abbiamo citato, cosa farà a Torino il 29 giugno, quando premierà appunto le eccellenze di 10 piccole imprese. Entro la prossima settimana firmeremo con un altro grande istituto bancario 3 nuovi strumenti per la piccola impresa. Beh, già questo è qualcosa, però dico alle banche, non fatevi trascinare in una posizione indifendibile. Casomai, visto che siete in concorrenza, dovreste essere in concorrenza tra di voi, andate anche a fare distinguo, a mostrare che alcune banche sono meglio di altre. Viva la concorrenza in questo caso. In bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai suoi associati, al presidente della piccola industria e Confindustria, Giuseppe Morandini. Ne abbiamo bisogno. Buonasera. Grazie e buon lavoro. E adesso arriviamo alla borsa. Devo dire che insomma le decine, centinaia ormai di sms che stanno arrivando, sono di tutti i generi. Ho cercato di dare il tenore, ve ne leggo l'ultimo, poi le informazioni perché in viaggio, la borsa e la conferenza stampa. Non si chiede alle banche di rischiare eccessivamente, ma quando loro hanno rischiato comprando titoli spazzature, le abbiamo salvate noi con le nostre tasse. minuti di nuovo in diretta. Adesso respiriamo un po', parliamo di borsa e poi, visto che molti di voi ci dicono ma insomma non fate parlare le banche, come no, avremo il presidente delle banche estere in Italia, poi a inizio mese vi sarà l'assemblea annuale dell'ABI, l'associazione delle banche italiane, avremo un'intervista con il presidente dell'ABI. Le banche quando vogliono sono benvenute, però con dati alla mano, perché non basta dire non è vero, sono gli imprenditori che non vogliono, se no restiamo sul così, sul pur parler. Noi le lettere vere di persone reali le abbiamo mandate in onda, le avete anche ascoltate, poi vi facciamo ascoltare anche qualche altra lettera nella seconda ora del programma. Oggi segnalo sul Sole 24 Ore, non ve la posso leggere tutta, pagina 5, la lettera di un imprenditore che ha detto io adesso ho chiuso, dopo che avevo scritto a ottobre al vostro giornale raccontando come la mia attività Orafa con più di 3.000 modelli rischiasse il fallimento perché nessuno mi dava fondi, adesso non è cambiato nulla, grazie, a parte un po' di aiuto da parte dell'associazione degli artigiani non ho ricevuto altro, ho chiuso, arrivederci, lo Stato aiuta le banche che hanno combinato disastri ma noi piccoli siamo abbandonati proprio dalle banche che vengono aiutate. Io dico, prima si mette mano a sta cosa meglio è, perché poi sennò tutto finisce con l'incistarsi la borsa. Meno 0,6% il FTSE MIB, meno 0,4% il FTSE All, meno 1% Parigi, meno 0,80% il Dow Jones, meno 0,5% Francoforte, meno 0,4% Londra, Nasdaq meno 0,2. Tutto sommato il miglioramento nel finale delle borse, euro a quota 1,40. Vediamo, sì, c'era stato un peggioramento dopo l'apertura di Wall Street, ma Wall Street si è mantenuta poi stabile. Comunque i migliori: Buzzi Unicem più 2,80, Banco Popolare più 2,2, CIR più 1,5, Atlantia più 1,3 come Ansaldo, Eubibank e Unipol. L'1,1 lo guadagna Finmeccanica, ma anche Mediolanum. Fronte opposto: Lottomatica meno 4,80, Popolare di Milano meno 2,3, Unicredito pure, Luxottica meno 1,90, A2A meno 1,70, è nel 1,5% di calo come Geox, ST Microelectronics meno 1,20, Fiat meno 1,1 come Campari, Mediaset meno 1%, Mondadori meno 0,80 come Fondiaria Sai e Autogrill. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Strane oggi le banche, non vorrei, sta diventando una puntata monotematica, però quindi parliamo di borsa. Popolare di Milano meno 2,3 e anche Unicredito, Banco Popolare più 2,2 e anche Ubibanca più 1,2%, diciamo due andamenti divergenti. Sì, contrasto per quanto riguarda gli investimenti sulle banche, se guardiamo diciamo ai due estremi, Banco Popolare guadagno di superiore al 2%, favorito anche dalle rassicurazioni e dalle parole fatte di oggi dell'amministratore delegato Savioti, che proprio dalle pagine del Sole 24 Ore ha sottolineato come entro un mese, probabilmente già entro la metà di luglio avverrà l'emissione dei bond appunto sottoscritti dal Tesoro, cioè i famosi Tremonti Bond, ed è il primo istituto che porta a compimento l'iter dei Tremonti Bond. Dall'altro canto un altro istituto che ha chiesto i Tremonti Bond, Banca Popolare di Milano, oggi è stato il peggiore dei bancari sul listino milanese, penalizzato peraltro da indicazioni di banche d'affari, nello specifico da CaixaBank, cioè la banca d'affari del Credit Agricole, che ne ha abbassato il prezzo obiettivo a 4,30, oggi l'apertura era già a 4,20 per la BPM, e ha sottolineato come il titolo potrebbe correre meno delle altre banche nel breve periodo. Andiamo avanti, basta con le banche adesso per un po'. Ansaldo STS più 1,3, bene, ma bene anche Buzzi Unicem, il settore cementifero fa alti e bassi in questo periodo, più 2,80%. Safilo, perché ieri insomma, abbiamo visto un bruttissimo rating a parte Standard & Poor's. Sì, negativa Safilo, che sta recependo anche se listino quelle che sono le brutte indicazioni da parte delle agenzie di rating e soprattutto le incertezze sul Cavaliere Bianco che arriverà a salvare le sorti soprattutto finanziarie della società dell'occhialeria. Tu ricordavi prima invece l'andamento del settore costruzioni cementieri, c'è da dire che oggi l'ok del CIPE ha una serie di investimenti per le infrastrutture e in particolare il settore autostradale. Ha favorito Buzzi Unicem, ha favorito anche Italcementi che diciamo non ha strappato in borsa ma si è tenuta a galla, ha favorito Atlantia, una società che controlla Autostrade per l'Italia, è andata invece negativa in pregiro perché slitterà ancora di una settimana l'ok del CIPE per il Ponte di Messina, ricordiamo in pregiro è la società General Contractor per questo grande progetto. Ah beh, vedremo con i conti di finanza pubblica, Ponte di Messina mi sa che slitta per un po'. Comunque vedremo, andiamo avanti con i titoli. L'Automatica meno 4,80%, peggior titolo tra quelli e maggiore capitalizzazione. Sì, l'Automatica ha sofferto una decisione del governo contenuta nel decreto fiscale, ovvero quello di affidare a una nuova gara tra i vari operatori del settore gioco e quindi non solo l'Automatica ma anche SNAI, SISAL eccetera, la concessione 2010 cioè a partire dal 2010 del Gratta e Vinci, mentre l'Automatica che è beneficiaria di questa concessione fino al maggio 2010 pensava, e così il mercato si era convinto, che ci fosse la possibilità con una trattativa di rinnovare la concessione alla stessa l'Automatica. Il fatto di invece procedere a una gara ha appunto affondato almeno parzialmente il titolo l'Automatica, ha dato fiato ad esempio SNAI che ben si è comportata, ha guadagnato l'1,5% oggi. Allora, tra i peggiori e i migliori in assoluto, Sanofi meno 8,90, Pirelli Real Estate meno 5,50, l'Automatica l'abbiamo detto, la Roma Calcio continua il suo travaglio meno 4,70, i migliori Green Vision più 12,7, la Camfin più 11,5, bene le Ratti più 5,3 e poi poco altro. L'Espresso perde il 6,91%, giornata difficile oggi per tutto il mondo editoriale. Sì, giornata difficile per il mondo editoriale oggi, certamente ha contribuito la questione sull'obbligo da parte delle società quotate in particolare di comunicare attraverso annunci pagamento le informazioni come convocazione d'assemblea, pubblicazione delle relazioni di conti eccetera, attraverso annunci pagamento sui giornali, questione che ha portato anche alle dimissioni presentate in Consiglio dei Ministri dal Presidente della Consob Cardia. C'era stata in pratica una divergenza di opinione tra i commissari Consob e il Parlamento, ovvero la Consob avrebbe dovuto adeguare, la normativa italiana avrebbe dovuto adeguarsi a quelle europee, quindi l'obbligo di pubblicazione di questo tipo di informazioni da parte della società avrebbe dovuto andare solo su internet e non sui giornali, con un mancato introito per gli editori. Il Parlamento italiano si era pronunciato successivamente in maniera contraria, quindi ristabilendo l'obbligo di annuncio e pagamento sulla carta stampata. Questo faceva bene chiaramente agli editori di giornali, quindi anche ai loro titoli in borsa. Tuttavia i commissari Consob si sono opposti a questa decisione del Parlamento, rimandando tutto al Consiglio dei ministri di oggi, e questo ha portato parecchia pressione non solo nei rapporti tra Cardia e commissari ma anche sui titoli editoriali. Grazie, buon fine settimana a te e colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, grazie Andrea Fontana. Non è ancora iniziata invece la conferenza stampa che doveva iniziare alle 17:15 con il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Tremonti, e quindi poi, quando arriverà qualcosa dalla conferenza stampa ve la daremo. Adesso invece ascolteremo il GR di Radio 24, poi di nuovo torniamo con le banche, sentiamo anche la difesa, insomma, il punto di vista dei banchieri.

automatico, sono stati stanziati 3 anni fa ma non sono mai stati erogati. 15 giorni fa mio fratello, che si occupa dell'amministrazione, chiama il funzionario del Ministero dell'Ambiente e questo gli risponde, consentitemi, non so nulla, non mi richiami perché qui non sa un cazzo nessuno. Questo è il Ministero dell'Ambiente. Ditemi voi. Abbiamo fatto la domanda di cassa integrazione a marzo per i nostri impiegati, per i nostri operai, e potevamo scegliere di farli pagare dall'INPS dopo 3-4 mesi oppure di pagarli noi direttamente, visto che sono amici, vicini di casa, conoscenti, gli abbiamo detto vabbè, li paghiamo noi per 2-3 mesi, ma non fateci aspettare più di tanto perché poi i soldi finiscono. La pratica è impantanata all'INPS, i soldi sono quasi finiti e noi non sappiamo cosa fare. Nelli adesso vede cosa può fare, perché quelle due palanche che mi ha lasciato nostro padre le abbiamo reinvestite in azienda e stiamo cercando di salvare il salvabile, però Piccinelli e suo fratello devono anche tutelare le proprie famiglie, quindi io temo che dovremo prendere delle decisioni molto spiacevoli, fino all'ultimo cercheremo di arrabattarci in qualche modo, trovare nuove cose, cercare di... Però io ho la sensazione che stia accadendo dal 10° piano e continuiamo a dire finora tutto bene, finora tutto bene, finora tutto bene. Ecco, poi alla fine troveremo il marciapiede. Che altro dire? Nulla. Prospettive non ne abbiamo. Eh sì, qui avete riascoltato Piccinelli, quanti Piccinelli ci hanno scritto in questi mesi e settimane, dei rapporti con le banche abbiamo parlato nella prima ora, dal punto di vista dei piccoli imprenditori, adesso dopo le informazioni per chi è in viaggio sentiremo il punto di vista delle banche, nel frattempo vi aggiorno sulle dichiarazioni che stanno arrivando dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi, la crisi e la paura... colpa dei media, adesso Berlusconi ha detto gli enti internazionali chiudono la bocca, con i loro dati fanno solo disastri. 18:16, ultima parte del programma e allora le lettere dei piccoli imprenditori le avete ascoltate, la testimonianza di Piccinelli, di tanti Piccinelli l'avete ascoltata, oggi su Sole 24 Ore c'è la lettera, ne ricordavamo di un... di Andrea Gaviore di Brendola, provincia di Vicenza, dopo aver scritto al Sole ottobre, adesso ha chiuso perché nessuno gli ha dato una mano. La linea delle banche, insomma, quella che è emersa in questi giorni, Corrado Passera 2 giorni fa ha detto il problema non è la liquidità, il numero uno di Intesa San Paolo, ma è l'economia, e quindi la liquidità delle banche c'è, sono le imprese che sono in difficoltà per altri motivi. Ieri Alessandro Profumo, le piccole e medie imprese soffrono, ma non è colpa delle banche, è colpa dei loro clienti che dei ritardi nei tempi dei pagamenti. Enrico Salza, oggi Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, i soldi ci sono, il problema è che il cavallo non vuole bere, quindi se anche gli diamo l'acqua, tanto il cavallo non beve. Presidente delle banche, dell'Associazione delle Banche Straniere in Italia, Guido Rosa, buonasera. Buonasera. Voi riunite come AIBE, che è appunto l'Associazione Banche Estere, 39 gruppi finanziari, tra cui i principali sono BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, ING, ONG, Royal Bank of Scotland, Barclays City e tutte Citibank, tutti i gruppi bancari stranieri presenti in Italia. Da soli fate il 20% di tutti i fondi intermediati del sistema bancario italiano quasi e con impieghi che fino a qualche tempo fa, adesso non conosco l'ultima situazione, arrivavano quasi a un sesto del totale, un quinto, un sesto del totale, circa il 20%, qui il 16%. Però restiamo sul tema. La risposta del mondo bancario rispetto alle critiche che abbiamo anche ascoltato, ai casi, le testimonianze che abbiamo anche ascoltato degli imprenditori è: avete altri problemi con i clienti, con i fornitori, con chi non vi vuole pagare, noi i soldi ce li abbiamo, ma siete voi che non ce li chiedete, perché tanto se uno non fattura, se non ha ordinativi, diciamo, è difficile che faccia investimenti. La convince o no? Parzialmente solamente, nel senso che la mia visione di quello che succede negli altri paesi è fondamentalmente questa. Concordo che oggi il problema non è più quello per le banche di non avere quattrini. Questo era un problema che si è verificato nella prima fase della grande crisi, perché ricorderete che allora effettivamente i mercati interbancari erano bloccati e le banche non avevano la liquidità da erogare. Questa fase è sostanzialmente terminata grazie agli interventi dei governi e grazie agli interventi delle banche centrali che hanno inondato di liquidità tutti i mercati. Oggi siamo confrontati con una seconda fase che obiettivamente è una situazione ancora più complicata da risolvere. Oggi cioè siamo nella situazione in cui le banche da un lato, diciamo la verità, sono diventate più prudenti nell'erogare credito, ma questo è anche del tutto comprensibile. Ricorderete che una delle ragioni fondamentali della crisi è stata quello dell'eccesso di erogazione di credito. I mutui negli Stati Uniti, il credito al consumo. Soprattutto a certi soggetti, perché i piccoli artigiani, le imprese commerciali, le piccole imprese manifatturiere non hanno mai avuto tutta questa pioggia di credito. Diciamo che un po' troppo credito strutturato, derivato. Beh, insomma, c'è stato troppo mutui. Credito a livello di credito al consumo. E quello a livello di prestiti ipotecari, cioè quello. D'accordo credito. Con lei. Dopodiché, assolutamente corretta la sua analisi, c'è stato troppo credito per operazioni sofisticate, laddove effettivamente si diceva che il leverage, cioè il debito, il rapporto fra debito e patrimonio, era assolutamente eccessivo. Insomma, questa comunque, al di là poi di alcune analisi più approfondite, è un po' un'eredità, dobbiamo dirlo, che le banche oggi globalmente hanno. La secondo problema effettivamente è che è complicato per le banche oggi fare credito, cioè fare del credito buono. Fare del credito buono significa fare del credito che naturalmente ha qualche probabilità di essere rimborsato. Non so bene quale sia il punto di equilibrio tra la prudenza delle banche e la mancanza di domanda da parte delle aziende. Certo che oggi, questo è vero in Italia, ma è vero anche in tutti i paesi, è una situazione complicata, e trovare il giusto equilibrio tra dare il supporto e il sostegno all'apparato economico e mantenere integri i propri conti economici, non dimentichiamo che molte banche sono quotate, è un equilibrio difficile da trovare. Adesso vedremo anche cosa capita all'estero sulla base della sua esperienza, però possiamo dire, già otterrei qualcosa, visto che lei è presidente di un gruppo di banche, di un'associazione che raggruppa un gruppo di banche, che ci sarà qualcosa pur di vero nelle dichiarazioni di Salza, di Passera e anche di Alessandro Profumo. Però è un po' poco dire: signori, noi il credito ce l'abbiamo, siete voi che non ce lo chiedete, signori, noi il credito ce l'abbiamo, ma i vostri problemi sono altri. Perché io ti potrei rispondere come imprenditore: è vero, ho problemi anche con i fornitori, anche con i clienti, però ce li ho anche con te, le due cose non si escludono. E poi mi sembra una risposta un po' sulla difensiva. Su questo possiamo essere d'accordo, se ci riusciamo o no? Questo siamo d'accordo, però voglio dire, non essere sulla difensiva non significa, non dovrebbe significare necessariamente essere conservatori, dovrebbe significare prendere visione di una realtà. Credo che alcune cose si possano fare in maniera un pochino più dinamica, adesso non faccio riferimento a nessuno. Peraltro alcuni esempi delle banche estere in Italia che stanno affrontando questo tema anche del finanziamento alle piccole e medie imprese in maniera un pochino più dinamica esiste. Però mi creda, insomma, so bene che tutti quanti vorrebbero che ci fosse qualcuno che con la bacchetta magica trova la soluzione a questo problema, ma questo del problema dell'erogazione del credito, incapacità da parte delle banche di erogare o incapacità delle aziende a chiedere, è un problema molto complicato che stanno affrontando un po' tutti i governi. No, io guardi, sono d'accordo, so benissimo che la banca non può essere né l'IRI né la cassa depositi e prestiti, so benissimo che sarebbe un ruolo improprio, anche perché la banca investe anche i miei risparmi, non voglio che venga meno alla prudente gestione nell'investimento. Però una crisi che hanno generato certi strumenti finanziari non può vedere penalizzate soprattutto le imprese, anche perché, come lei riconosceva, fino all'altro ieri invece era tutto un boom di credito al consumo: comprati la TV con i soldi, comprati la macchina con i prestiti. Cioè adesso improvvisamente chi vuole, come nei casi che abbiamo raccontato, fare degli investimenti seri, ha delle credenziali serie, ha un rating serio, sta Basilea maledetta ce l'ha, beh, insomma, lì non si può dire no, torna, scusami, dammi lì come ipoteca anche la pensione di tua moglie, perché a quel punto qualcosa non quadra. Guardi che Basilea può essere letta in due modi diversi. Ecco perché si chiama due. Ecco perché si chiama due. Esattamente. E qui sono un pochino polemico, perché è vero quello che dice. Per certi versi Basilea 2 dovrebbe in qualche modo garantire quelli che chiedono credito se hanno certi numeri, ma per altri versi, mi creda, ha eliminato la capacità intellettuale delle banche e degli analisti di credito di andare un pochino al di là dei numeri. Ma siamo d'accordo. E questa è la situazione nella quale effettivamente uno dovrebbe avere la capacità di avere uno spirito imprenditoriale, naturalmente da banchiere, e di andare un pochino al di là dei numeri. Per certi versi Basilea 2 questo, è un impedimento oggi. Allora, lo dico a chi è in ascolto e chi scrive al 349-238-6666, Basilea 2 è quel meccanismo di regole che, fino a che non è scoppiata la crisi, dovevano servire alle banche di tutta Europa per valutare la qualità di chi ti chiedeva un prestito, dell'imprenditore che ti chiedeva un prestito. Davano un rating, un voto, dicevano: beh, tu hai un bel voto perché sei affidabile per tanti motivi. Regole uguali per tutti, e da lì appunto Basilea, città al centro dell'Europa anche geograficamente, in modo che qualunque banca, non so, una banca scozzese che volesse prestare soldi a un imprenditore vicentino, utilizzava, aveva sotto mano gli stessi criteri. Quello che lei dice è che, per carità, hanno permesso di paragonare imprese del Galles con imprese del Portogallo, però hanno un po' ingessato tutti, e quella abitudine a prestare i soldi sulla base di una conoscenza capillare, personale, profonda, anche diciamo che si sviluppa nel corso degli anni, che deve avere banchiere del territorio, si è un po' persa. Cavoli, cioè, ci pensassero i banchieri, però non ci può pensare l'imprenditore. Rimettessero mano queste grandi banche alle loro strutture sul territorio, andassero a spiegare ai loro direttori di area, di filiale, come si fa a prestiti, perché per esempio le piccole banche popolari di credito cooperativo, le BCC, questa cosa non l'hanno mai abbandonata. Non voglio infatti fare di tutto un'erba un fascio. Gli stessi problemi lei li registra tra banche, piccole imprese, imprese artigiane, commercianti, li registra anche all'estero? Cioè si registrano all'estero? Dipende da paese a paese. Bisogna naturalmente riconoscere che l'economia italiana è quella che è più centrata sulle piccole e medie aziende rispetto alla Francia e alla Germania. Quindi in questo senso è chiaro che l'Italia è quella che soffre di più. Però per quanto attiene alla capacità delle banche, alla volontà delle banche di erogare credito, insomma, il problema rimane. Però bisogna considerare che ci sono delle strutture, per esempio in Francia, consortili di aiuto alle piccole e medie aziende, che funzionano, voi sapete, molto molto bene. Per esempio la questione dei prefetti che stanno a supervisionare certe aree, che in qualche modo è stato qui e mutuata, in Francia mi sembra che stia funzionando molto bene. Cioè in altri paesi esistono delle strutture forse un pochino più solide di aiuto alle piccole e medie aziende. Con questo non voglio dire che in Italia non ci siano, insomma, viene fatto. Però il problema fondamentale c'è un po' dappertutto. Grazie, grazie Presidente dell'Associazione delle Banche Estere in Italia, Guido Rosa. Grazie. E siamo in conclusione del programma, adesso 18:27 minuti. Sì, giustamente alcuni di voi scrivono: ma il comune mezzo gaudio non si può applicare. Vabbè, bastava anche, importante anche capire cosa succede negli altri paesi. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un augurio di buon fine settimana a voi in ascolto, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo e Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.